sto fetumi. Me trovate sempre chi de seghiule proprio che non ti che mai da fambelin. Nume va nel sineci, de minuga fasseci. A vediate sorridente faccia grande come un che. Ti vi piace a lungo se a te buca ti serie. In talista di chi per parla non vedo un nume te. Non ti l'imparosa che son donne che son be. Ma che ti devi la mia quelli di pagite. Anche se ti ta ruggenti per i mese, ti resti è quello gran succido che te. Ti m'intendi se te lo dico anche in senese, la chia porta pagna da via qui. Rumenta, ma ti non ti vedi che te sempre in mezzo ai pe. Rumenta, o se fai tu tardi, pigia e borse, porta via belì. Sempre savio che in cervello nutighe. Mi pensava almeno che t'aviesci un po' di dignità. Oh, a mio capio che manco se tu dici in fre. Ti t'accorsi che ti tempa già su sempre ti restie. Poi che sun e musse che ti pe sempre ne contie. Ti dave convinto questa povia fuenta ti credie. Fermoti ti vi appari, ma ti non ti te cusci. Prima o poi qualcun te scrive un po' dai a ragione a mi. Non ti te rendi conto che ti te de troppo. Torni te un po' da donde te venio. Ti ta vieci fin a qui a dove scioppo. Pur poi te Isabello che spariu. Rumenta, ma ti non ti vedi che te sempre in mezzo ai pe. Rumenta, o se fai tu tardi. Su crede te ancora davanti a me. Rumenta, è tanto grande un mondo, serni in posto e porti più belli. Rumenta.